Absolute Beginners, la musica emergente su Radio Città Fujiko. E buon pomeriggio a tutti e ben ritornati ad Absolute Beginners, l'appuntamento di Radio Città Fujiko con la musica emergente. Buon pomeriggio a tutti e ciao Eleonora. Ciao a tutti, oggi formazione Chiara e Eleonora, andiamo a rotazione. Questa settimana vi parleremo per i prossimi 20 minuti circa delle nuove proposte del mercato discografico italiano. E questa settimana abbiamo una puntata un po' a tema, perché intanto aguzzate le orecchie, sono due artisti, due musicisti che suoneranno questa settimana a Bologna e vengono tutte e due da due progetti precedenti in inglese, e a un certo punto hanno avuto l'esigenza di lanciarsi con un nuovo progetto solista, e questa volta in italiano. Esatto, segnatevi bene queste date: il 22 marzo per Gigante al Locomotive. Ex bassista dei Mustache Brown, che i più attenti ascoltatori già conosceranno perché Eleonora li aveva già intervistati, che adesso presenta l'album Himalaya. E poi invece abbiamo Andrea Poggio, che suonerà al TPO ad Enolibri il 24 marzo. Lui invece forse ve lo ricordate perché era il cantante dei Green Lake July, e invece adesso ci presenta l'album Controluce. Questi sono gli intervistati di questa settimana. Segnatevi le date: 22 marzo al Locomotive per ascoltare Gigante, 24 marzo al TPO se volete ascoltare Andrea Poggio. Mi sentivo molto Carlo Conti in questo momento. Dirige l'orchestra Peppe Vessicchio, e con Sopravvissuti ci ascoltiamo Gigante. L'inverno non lo sa che gli alberi sono scappati da i blasferi e dalla gravità, con tutti i rami come animali. Sulle note di Sopravvissuti diamo il benvenuto a Ronny, ovvero Gigante. Benvenuto ad Absolute Beginners. Ciao ragazzi, ciao. Bene Ronny, Gigante è il tuo progetto solista, parte tutto nel 2016, ma facciamo una premessa. Tu comunque nasci come bassista dei Mustache Brown. E, sì, sì, esatto. Appunto, dopo questa esperienza importante con i Mustache, come nasce l'esigenza di partire con questo nuovo progetto? Guarda, in realtà nasce appunto 2 anni fa. Io ho girato tantissimo con i Mustache Brown, noi cantavamo in inglese, poi mi sono affacciato al mondo della musica in italiano, mi affascinava un po' la musica cantata in italiano, ho avuto proprio l'esigenza di fare musica in italiano, e Mustache in realtà non abbiamo provato a fare dei pezzi in italiano, ma non si sposava con la musica. Infatti con questo progetto la musica cambia totalmente da quella che facevo con i Mustache. Ho notato che con l'italiano si sposava molto bene. E appunto il 26 febbraio è uscito il tuo primo album, Himalaya, sì, che sì, è stato preceduto da due singoli, Guerra e Frank, che hanno avuto anche un'ottima risposta sia dal pubblico che degli addetti ai lavori. Hai avuto delle ottime recensioni, comunque si è parlato tanto di te già prima dell'uscita dell'album. Ti va un po' di parlarci di questo album, di come sono nati i pezzi? Sì, sono nati un po' in maniera spontanea. Ho fatto anche una cover di Kenny il Guerriero. Diciamo che nasce anche un po' da lì, dal mondo post-apocalittico di Kenny il Guerriero. Poi mi affascinavano anche storie come ad esempio Cuore di Tenebra di Conrad. Cioè nasce un po' così, da varie influenze, dalla letteratura, ma anche da altri artisti, da gruppi che ascolto, ho ascoltato 2 anni fa, tutto, che continuo ad ascoltare. Tu dicevi, cercando un po' di informazioni su di te, sul web, sì, ho sì, trovato trovato questa tua descrizione. Faccio pop invernale con l'ukulele e mi piace che Nil Guerriero, che un po' riassume, sì, direi, alla riassume perfezione. Tutto. Esatto, sì, sì. Infatti, cioè, è strano perché l'ukulele è uno strumento che non viene associato all'inverno ma all'estate, e quindi, cioè, faccio pop invernale con l'ukulele. Sono un po' strano, però è stato un esperimento quello che ho fatto, anche perché i testi sono molto invernali. Infatti c'è un pezzo che si chiama Siberia, c'è un pezzo ai sopravvissuti che parla di questi ragazzi che sopravvivono al freddo, eccetera. Appunto, dicevi di Kenny il Guerriero. Com'è nata l'idea comunque di fare, di uscire fuori con questo brano fatto in live session? Allora, a me quel pezzo, la sigla, a me piace tantissimo, sia dal punto di vista degli arrangiamenti, sia dal punto di vista testuale, quindi ho ritenuto doveroso rifarla come cover. Bene, parliamo un po' di live. Tu domani sarai qui a Bologna al Locomotive per il tuo concerto. Per il tour partito da poco, hai fatto una data zero al Miami Ora a Milano, sì, sì, e sì, poi un'altra, la data proprio uno, è stata a Noi Cattaro a inizio marzo. Come sono andate queste prime date? Come è stata la risposta del pubblico rispetto appunto all'album ascoltato live? Guarda, sono andate molto bene. Alla data del Miami ho avuto un po' di problemi tecnici, ma un primo live me li aspettavo. Per quanto riguarda la risposta del pubblico, sì, ci sono stati molti apprezzamenti, ne sono contentissimo. Per quanto riguarda la data Alex Viri a Noi Cattaro, è stata la prima data ufficiale dove ho suonato tutto il disco per intero. Sì, è venuto un sacco di gente, non me l'aspettavo sinceramente, mi è andata molto molto bene. Giocavi un po' in casa, visto che comunque sei pugliese, esatto, e Mustache Brown comunque avete comunque tantissimo seguito, specialmente in Puglia, quindi... Sì, poi ho ritrovato un sacco di amici, sì, è stata una bella... sono state tutte e due delle belle date. Bene, Ronny, io ti ringrazio di essere stato qui con noi ad Absolute Beginners. Ci vedremo sicuramente domani al Locomotive, invitiamo tutti i nostri amici a venire al Locomotive a vederti, okay, dal vivo. Va bene, grazie. Va bene. Grazie a voi, ragazzi, un abbraccio. E questa è Siberia. adeguarsi, volteggiare e poi cadere nel sonno più profondo. D'un tratto svegliarsi, uno scatto sobbalzo, con passo interrotto, tentenno, pancestico. Faccio largo tra la folla, sotto al sole tiepido d'un freddo fino a mezzo. Salvo la strada e poi d'incanto, il traffico s'arresta tutto intorno in un momento. Gli spazi s'allargano, un passo con brivido in un baleno, e notte ho sussulto uno slancio, pandeggio e precipito. Suoni ad intervallo, sali, scendi e mi ritrovo senza fiato. Palpiti interrotti, un passo falso e poi precipito nel vuoto. Fondo picco e mi dissolvo in mezzo al mare statico, un istante con una galla. Sfuggo la riva all'orizzonte, all'improvviso un'onda mi riporta solo a terra. Gli spazi s'allargano, un passo con brivido in un baleno, e notte ho sussulto uno slancio e poi lampo soffuso. Diamo un benvenuto ad Andrea Poggio, ospite di questa puntata di Absolute Beginners. Ciao Andrea, grazie per essere qui con noi. Un buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, noi abbiamo appena ascoltato Addormentarsi, che è un estratto di questo tuo nuovo lavoro, un tuo esordio solista, Controluce. Prima di iniziare questa intervista volevo fare un attimo un po' di contesto, perché noi ci occupiamo di musica emergente, il tuo è un esordio da solista, ma tu hai alle spalle molti anni di carriera di musica con Green Like July, di cui eri la voce e il fondatore. Ecco, da questo volevo partire con la prima domanda e chiederti di raccontarci un po' questo passaggio. Sì, con i Green Like July ho avuto un percorso musicale che è durato circa 10 anni. Ho avuto modo di registrare 3 dischi. Direi che la principale differenza, poi potremmo entrare nel dettaglio delle differenze a livello musicale, è per riscontrare il fatto che con i Green Like July cantavo in inglese, questo è il mio primo disco scritto in italiano. Ecco, insomma, questa scelta direi che anche mi ha portato su altri lidi a livello anche musicale. Con i Green Like July la proposta era una proposta, se vogliamo, più incentrata su, certo, al country di inizio 2000. Con questa cosa qua invece, con Controluce, diciamo che la proposta musicale è una proposta un po' più variegata, questo quanto. Leggevo, no? Io mi sono un po' informata prima di venire a parlare con te, leggevo anche che c'entra anche un po' un discorso su un distacco tuo con la chitarra, no? Degli arrangiamenti. Sì, infatti con i Green Like July le canzoni venivano scritte necessariamente con la chitarra, perché, dico necessariamente perché, è l'unico strumento che in realtà so suonare davvero. Noi eravamo un gruppo, quindi la canzone veniva sviluppata in gruppo a livello di arrangiamento in una sala prove umida, buia e piena di grani. Adesso invece la cosa è molto mutata, io maldestramente ho iniziato a usare i computer e quindi mi permetto di fingere di saper suonare tutta una serie di strumenti che in realtà non so suonare, di metterli insieme a mio piacimento e soprattutto, grande svolta, per la prima volta non ho più una sala prove e faccio tutto comodamente da casa mia. Quindi niente più ragni, insomma. Niente più ragni, esatto. Ok, e ne approfitto anche per ricordare che era una collaborazione che poi era già iniziata con i Green Like July, anche per questo album, insomma, hai collaborato per gli arrangiamenti con Enrico Gabrielli. Certo, direi che forse è la vera costante tra Be The Fire, che è l'ultimo disco che ho inciso con i Green Like July, e Controluce, appunto, è Enrico. Con Enrico ci eravamo incontrati in realtà in occasione della registrazione di Be The Fire, ma il discorso è andato un po' oltre e appunto ho deciso di coinvolgerlo anche per aiutarmi ad arrangiare Controluce. Ok, e parlando di Controluce, che è uscito lo scorso novembre, allora, io ho letto alcune tue interviste precedenti e ho notato una costante, poi correggimi se sbaglio. Insomma, ti si dice spesso che Controluce è un lavoro non immediato, che ci vuole un po' di tempo per ascoltarlo, e tu puntualmente rispondi che secondo te invece Controluce non è un lavoro di difficile fruizione. Ti sai dare una spiegazione di questa differenza, sì, di impressione? Sì, c'è questa sorta di mantra che io rispondo tutte le volte, appunto. No, in realtà un po' ne prendo atto, ecco, nel senso, io non voglio contraddire l'ascoltatore. Nello stesso tempo noto che bisogna sempre contestualizzare un po' le cose. Io credo che Controluce non sia un disco particolarmente ardito né tanto meno strambo. è un disco che va inquadrato all'interno della musica pop. Se vogliamo definirlo pop sperimentale, io che so che cos'è il pop sperimentale ho un po' di problemi a definirlo tale. Stiamo parlando comunque di canzoni caratterizzate da una strofa, da un ritornello, magari con arrangiamenti un po' insoliti, forse questa è una cosa vera, non lo so. Però ecco, secondo me è un po' il contesto. Siamo un po' in un periodo musicale dove ci stiamo abituando a ascoltare le cose con un po' di superficialità. Quindi, ritornando alla tua domanda, forse controluce non è la solita cosa che si ascolta su Radio 105 o nelle playlist di Spotify, Caffè della Mattina o appunto questi nomi un po' sperimentali delle playlist di Spotify, però secondo me è un disco abbastanza pop. Cosa ne pensi? Sono d'accordo, non ti chiederò, non ti dirò che controluce. Non mi dirai che esatto, che controluce un disco che ti ha messo in difficoltà. Esatto, non te lo dirò. Però ti chiederò quali sono stati i tuoi riferimenti musicali. Sono stati tanti in ambito internazionale, ti potrei fare davvero una marea di nomi. Mi piacciono cose un po' più magari insolite, ovvero artisti che hanno dato e hanno fatto scelte un po' meno magari confortevoli. Ti potrei citare Prince, potrei citare Dori Anderson, Kate Bush. Questi sono un po' artisti che ho ascoltato tanto, ma anche cose un po' più recenti. So, Kendrick Lamar stesso. Piacevano molto i Dirty Projectors, fino ad arrivare a Paolo Conte, a Piero Ciampi. Questo è un po' il background, se vogliamo, di ascolti. Devo dirti anche la verità che ormai, non essendo più giovanissimo, con Controluce ho per la prima volta finalmente, mi sono accorto un po' di non avere più un contatto diretto rispetto alle influenze, ma sono riuscito in un certo senso un po' a discostarmi e a intraprendere una strada nel bene e nel male mia. Anche qui ti chiedo cosa ne pensi, perché poi alla fine sei tu quella che ascolta il disco. Beh, penso che sia comunque, appunto, come dicevi tu, un segno di maturità e anche l'obiettivo poi di chi fa musica, cioè imparare una grande lezione e poi offrire qualcosa di proprio agli altri. Okay. Quindi, prima di salutarti e andarci ad ascoltare un secondo estratto, cioè la canzone che poi dà il titolo al tuo album, quindi Controluce, ti volevo chiedere qualche tuo prossimo appuntamento, perché tu qui, per quanto riguarda Bologna, sei stato da poco all'Antoniano in apertura con La Pesce. So che però avremo la possibilità di ascoltarti a breve. Sì, infatti, tra pochissimo in realtà, perché suonerò il 24 marzo al TP Opere No Libri, è un sabato, quindi direi accorrete numerosi. Cammino ad occhi chiusi, le strade son deserte, le vetrine illuminate, orizzonti verticali, muri di città. Gli odori del mattino, aprile forse maggio, luci gialle intermittenti, scritte al neon, cartelloni di pubblicità. Perdersi nei vicoli, smarrir la via di casa. Parchi sconosciuti, piazze nascoste. Steso sopra l'erba sotto un cielo rosso arancio, riscopresi all'improvviso in pace col mondo. Cammino senza meta, da un marciapiede all'altro, aprono le edicole le luci dentro i bar e parlo ad alta voce, riflesso a una finestra. Giochi d'ombra, proiezioni, antenne in lontananza, arriva il primo tram. Le persiane chiusi, viali immersi nel silenzio. Strade senza nome, nuove distanze. Correre tra i pali dei lampioni zigzagando, giro la città come sospeso nel tempo. Luce contro luce, forme contro luce. Solo all'orizzonte del mattino in un momento, fumo tra le cose a poco profondo. sarebbe sotto un cielo rosso arancio, scoprirsi all'improvviso in pace con correre tra i pali dei lampioni zigzagando, giro la città come sospeso nel sole all'orizzonte del mattino in un momento, sfumo tra le cose a poco a poco profondo. E avete appena ascoltato Controluce di Andrea Poggio, con la quale si chiudono le interviste di questa settimana di Absolute Beginners. Ormai il tempo è quasi finito, siamo agli sgoccioli e arriviamo con il nostro momento vintage. Andiamo a riscoprire vecchi album d'esordio e questa settimana facciamo un passo indietro di 8 anni per andare a recuperare un esordio bellissimo. Ce ne fossero di esordi così ogni anno. Rimaniamo sempre in tema di canzone d'autore al maschile e ci andiamo ad ascoltare il primo album di Io sono un cane. Sì, tra l'altro Eleonora, sono troppo dispiaciuta di non essere stata a sentirlo al Duse. Magari ha fatto anche qualche brano proprio dalla Maccarena su Roma del 2010, che è appunto il suo album d'esordio. Eh sì, è stato un peccato essercelo perso. Se voi l'avete ascoltato, ci volete raccontare com'è stato, vi ricordiamo che noi abbiamo una pagina Facebook che è Absolute Beginners RCF, dove ci potete intanto raccontare i concerti che vi sono piaciuti, ma anche suggerirci album d'esordio che vi piacerebbe riascoltare o anche suggerirci nuove proposte da intervistare. Noi siamo sempre qui disponibili. E tornando a Io sono un cane, alla canzone d'autore, torniamo, come diceva prima Chiara, nel 2010 con il suo esordio La Maccarena su Roma e ci andiamo ad ascoltare Il Sesto Stato. E con questo noi ci salutiamo, l'appuntamento è sempre per mercoledì prossimo alle 14.30 con tanta nuova musica emergente. Terzo piano ascensore, quattro stanze con balcone, posto auto, giardinetto e lenzuoli stesi, i nostri amici a quattro zampe accompagnano. Semafori, cartelli pubblicitari, puttane, poliziotti, cantieri edili e il disastro ambientale dei lavametri, signori. E a 100 passi negli uffici con vista brindano i risultati gli amministratori delegati, con bocche rivestite di peli, i canini paleo-industriali, le lingue finto-inglesi. Ed invecchiano